English Bit di Giulia Crivelli. Reality Check. Pirelli's Reality Check, Portraying Beauty at Any Age. Il bagno di realtà di Pirelli, ritrarre la bellezza a qualsiasi età. Il New York Times ha intitolato così il reportage da Parigi sulla presentazione del calendario Pirelli 2017. La foto scelta per illustrare l'articolo è quella di Helen Mirren, attrice inglese di 71 anni, una delle 15 donne volute dal fotografo Peter Lindbergh. L'espressione che ci interessa è reality check, letteralmente controllo della realtà, che possiamo tradurre con una certa approssimazione bagno di realtà. Perché volendo spiegare davvero cosa si intende, dovremmo dire an occasion when you are reminded of how things are in the real world rather than how you would like things to be. Un'occasione in cui ci viene ricordato come le cose stanno davvero nel mondo reale invece che come vorremmo che fossero. Il reality check del calendario Pirelli sta nell'aver ritratto donne di ogni età e, come era già successo nel 2016 con l'edizione firmata da Annie Leibovitz, senza ricorrere al nudo, senza scegliere modelle e senza usare Photoshop. Da real e reality derivano naturalmente molte espressioni, a cominciare da reality TV o reality show, che in Italia chiamiamo semplicemente reality, mentre in inglese non si potrebbe fare. Un po' come quando diciamo basket per parlare di pallacanestro, mentre in America o Regno Unito devono usare sempre basketball. Poi c'è real time, anche questo spesso usato in italiano senza tradurre e per intendere in diretta. E infine realpolitik, espressione nata in Germania ma entrata nei vocabolari inglesi. Un'altra parola interessante del titolo del New York Times è any. Se si fosse scelto every, quindi every age invece di any age, il significato sarebbe stato leggermente diverso, da qualsiasi a tutte. Any ha mille usi, anche composto in altri modi: anybody, anyone, anything, anyway. Is there anybody who can help me? C'è qualcuno che può aiutarmi? Anybody can see that you're wrong. Tutti possono vedere che stai sbagliando. The book wasn't anything as good as her first one. Il libro non era per niente buono come il primo. The water was cold, but I took a shower anyway. L'acqua era fredda, ma feci comunque una doccia.